oh oh oh. Il tuo ragazzo, il tuo ragazzo è una merda. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Digiflessione ogni secondo, per te che osservi il mondo. Io sono come sono, il mio corpo non me lo monto. Facciamo il conto, io ogni parola te la smonto. Lui al massimo ti legge il suo riassunto. Pronto, risponde al cellulare come sfonda la sua foto mentre stava per cagare. Sorride allo specchio, tatuaggio sul petto. Adesso si fa il figo, ma i miei dubbi quando è vecchio. Spiegami un po' che mi manca. Ok, il fiato arranca, ma al massimo lui tiene 10 kg su una panca. Minchia, complimenti, a furia di pompare ti si stringe, parlerai come Laurenti. Non credi che posso prendere il suo posto. Non vedi che ti starò per sempre addosso. Lasciarti da sola con qualcuno che non dà il 100%. Mi dispiace ma non posso. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Tutti questi squilli e quando ti incazzi trilli. Mi dici che di te io mi ricordo ad intervalli. Io nella testa non ho grilli. Ricordi me li attacco con gli spilli. E cara col mio cuore tu ci balli. Intorno a te migliore ed il peggiore. Ma il migliore con gli sguardi. Ogni volta mi sorridi e gli occhi del ragazzo pronto a fare gli omicidi. E lo so che tu mi cerchi, lo so che io ti cerco. E lo so che non decidi perché questo è il nostro marchio. E lo so che il tempo giusto ancora deve arrivare. E lo so che tutto il resto ancora deve aspettare. Ma con te tutto è diverso e con te non è lo stesso. E con te non è più sesso, ma è concesso. E ancora questo chiasso ci divide solo un passo. Ma lasciarti con qualcuno che non dà il 100% mi dispiace, ma non posso. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Seduto su quei banchi verdi ti osservo. Uno sguardo e il tuo vicino sbava come fosse un servo. E i tuoi capelli sciolti, oggi troppo folti. Domani troppo lisci, i tuoi problemi mai risolti. Ricordi quella festa dove c'era poca gente. Ho capito la tua testa e lo so che è indifferente. Il cuore batte, sembra ormai fuori controllo. E la maglietta troppo stretta che si intravede il collo. Io lo so, tu lo sai e si sa che non mollo. Affondo i miei pensieri e il tuo sorriso da sballo. Mandi a fanculo anche il mio cervello. Ma dammi 30 euro che poi ti porto al ballo. E non sai che sballo, io volo basso, un anno è me stesso. Questo gioco è concesso ed oggi è lo stesso. Sì, lo so che ti stresso, ma tu lo sai che son pazzo. Ma lasciarti con qualcuno che non dà il 100% mi dispiace, ma non posso. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha. Dimmi cosa cerchi tu nel tuo ragazzo. Amica, sono uno in tutto l'universo. Non sono io il tuo tipo e non mi metto in mezzo. Ma qui dentro c'è un mondo che sai che lui non ha.